E abbiamo uno dei palcoscenici protagonisti con il Breakfast Club. Oggi presenteremo per esteso la stagione 2023-2024 di TC Teatro, incontri, spettacoli e visioni per spettatori e no, a cura del Teatro dell'Argine, la sede ITC Teatro di San Lazzaro, seguita dal Breakfast Club fin dalla nascita del Breakfast Club stesso. Ma ormai per questa stagione scopriremo che per ITC Teatro sono arrivati i 30 anni, una bella data, un bel compleanno. A maggio 2024 saranno 30 anni, portare gli auguri in anticipo non va benissimo, però con l'entusiasmo, la qualità di programmazione, l'attenzione per un pubblico eterogeneo, i contenuti, certamente avremo modo di, oltre che una sicurezza, anche di un entusiasmo per arrivare a un ascolto e a spettatrici e a spettatori curiosi e attenti. Stupisce positivamente sempre ogni stagione ITC Teatro. Io ringrazio per la collaborazione Micaela Casalboni, Andrea Paolucci e Nicola Bonazzi, che ormai come diverse voci in collaborazione con il Breakfast Club ho definito co-redattore della nostra emittente, sì, perché la presenza oltre che importante è anche di grande conversazione e dialogo con Nicola, che ho intercettato poco prima dell'inizio della conferenza stampa. Ho dato possibilità di ripassare il programma, di solito la mia scusa è questa, con direttrici e direttori artistici, curatori, insomma le voci per esposizioni e palcoscenici, è dare una possibilità, poi una grande prova per il test di conferenza stampa a seguire. E quindi a breve ascolteremo questi motivi di incontro a Teatro dell'Argine con ITC per quello che è una stagione che ci attende, che non vede solo il palcoscenico ma vede anche motivi di aggregazione, laboratori, dialogo con il pubblico che si conferma e tante altre attività. Prima di iniziare propongo un po' di musica. Lui è una voce della Talking Loud, il brano è I Commit e lui è Brian Powell. A tra poco. seconda metà degli anni 80, metà anni 80, dove il soul incontra questa linea dritta di groove elettronica. Lui è Brian Powell, uno delle prime voci per la Talking Loud. Ascolteremo altri brani per Talking Loud di Gil Peterson, una delle etichette fondatrici dell'acid jazz. Il brano è I Commit, cioè io mi impegno. La nostra conversazione a breve con Nicola Bonazzi, co-direttore artistico per quanto riguarda ITC Teatro nella stagione 2023-2024, per la presentazione di questa stagione, appunto, oltre che così portata in narrazione di finta diretta, proprio per avere un aspetto scorrevole di ascolto, ma allo stesso tempo anche molto, immagino, I commit, mi impegno, perché sia il più chiaro possibile. È una diretta che parte subito da un buon compleanno, sono 30 anni, quindi ampiamente maggiorenni, se non che è un'età adulta, e noi siamo con il co-direttore artistico e redattore di Radio Città Fugico, ormai Nicola Bonazzi, al quale do il buongiorno, ben trovato. Buongiorno da un redattore, diciamo, appena assunto. E poi con uno stipendio molto ridotto. Sì, direi quasi zero, ecco, ecco, diciamolo, zero. Sì. Ma non è un caso di sfruttamento, dai. No. È uno scherzo di William, insomma, è solo questo. Allora, visto che è una ricorrenza, come si inizia e come festeggeremo tutto ciò? Ah, festeggeremo i 30 anni del Teatro dell'Argine. Abbiamo scritto nelle note, insomma, della stagione, che ci sembra ieri la ricorrenza dei 20 anni, siamo già arrivati ai 30, intanto è importante esserci, questo mi sembra un traguardo straordinario. Siamo qua e l'anno prossimo, noi siamo nati il giorno 17 maggio, quindi presumibilmente il 17 maggio del 2024, festeggeremo non solo noi della compagnia, chi c'era e poi chi è subentrato dopo, ma festeggeremo con quella comunità allargata che rappresenta il pubblico, la cerchia di amici, tutta quella, appunto, comunità, quell'insieme di persone con cui il teatro e la compagnia in questi anni è entrato in contatto. Insomma, ci piace proprio pensare che non sia una festa, diciamo, tra virgolette, privata, ma una festa pubblica, ecco, diciamo. Questo è importante. Linee e novità per la stagione 2023-2024. Allora, riprendiamo lo schema dell'anno scorso, vale a dire che con alcuni spettacoli organizzeremo degli incontri post spettacolo, dove inviteremo personaggi della società civile a confrontarsi sui temi degli spettacoli che sono stati visti il giorno prima o la sera prima. Per esempio, posso dire che tra questi ci sarà lo spettacolo di Saverio La Ruina, che poi incontrerà Erika Capasso, ci sono Vetrano Randisi con i Macbeth, ci sono Ermanna Montanari che dialogherà con Elena Bucogliero. Insomma, questa è una delle cose che ci piace riprendere dall'anno passato, è stata una novità dell'anno passato, però ci piace farlo perché, appunto, lo spettacolo non sia solo lo spettacolo, ma contribuisca a muovere idee, a sollecitare opinioni sui temi degli spettacoli in questione. recognize the hip strut when you hear one. The jazz vibe to the tribe that's in here, son. Take it to another level so it executes hip-hop's greatest lesson of its grassroots. Baptized in my form to be meditated, the aura of the ghetto slang that's affiliated with instruments who speak the language the way I walk. Besides that, what I heard from Pop and Lou talk, pieces to the puzzle fit to paint a picture, expanding my knowledge with ya to make it richer. Cause living is divine, baby. Too bad we can't repeat, at least while we struggle now. Let's make a little sweet. Hipstrat per Hip Bop Record. Anche qui, quando jazz incontra l'hip hop. Ed è un gran bell'incontro, incontro a ITC Teatro, la stagione che stiamo presentando, oltre che la ricorrenza che abbiamo aperto, poi proprio sottolineando tutto ciò, vede anche una conferma, che è un dialogo con gli spettatori. Si aggiungono anche, anzi già presente il programma per i più giovani, ma ora passiamo anche ad alcune novità a proposito della stagione che sta iniziando. Intanto io vi ricordo che la sede, il palcoscenico, per chi non lo sapesse ancora, è in via Rimembranze 26 a San Lazzaro di Savena, ovviamente in provincia di Bologna. Inizio ufficiale, lo aggiungo, inizierà sabato 4 novembre, lo aggiungo perché, come ben sapete, noi seguiamo passin passino tutta la stagione di ITC. Nicola, appunto, in questo segmento di conversazione sottolineiamo alcune novità. Poi c'è una cosa nuova quest'anno, cioè ci piace ospitare, abbiamo deciso di ospitare alcuni spettacoli con cui siamo entrati in contatto, spettacoli che hanno a che fare con il teatro danza, con il teatro di figura. Ecco, in questo caso davvero devo dire c'è qualche chicca, perché da noi, insomma, questi spettacoli si vedono molto di rado, non intendo proprio ITC Teatro, si vedono molto di rado, anche forse per la struttura della sala. Quindi in qualche modo ci siamo voluti fare una sorta di regalo, quindi avremo la compagnia Abbondanza Bertoni, il collettivo Unterwasser e poi la compagnia internazionale Belova Jacobelli. Ecco, io qua davvero vi invito a seguire il calendario degli spettacoli, perché sono un po' delle chicche, ecco, quindi ci teniamo molto a presentarvele. Poi c'è l'altro contenitore che già dall'anno scorso si intitolava, già da anni insomma si intitola solo all'ITC. Avremo per esempio Cattivo, con la regia, non l'interpretazione ma la regia, di un'amica della compagnia, che è Giuliana Musso. Avremo Oreste di Accademia Perduta, Una fuga in Egitto della compagnia Retablo, Medea per strada di Teatro dei Borgia e Sid di Cubo Teatro, compagnie più giovani insomma a cui ci piace sempre dare spazio. Avremo naturalmente anche delle produzioni del Teatro dell'Argine, una produzione con Andrea Santonastaso, e so insomma che gli spettacoli con Andrea sono molto seguiti. Andrea è un grande amico mio prima di tutto, e quindi si rinnova il connubio tra Andrea e me, nel senso che lo aiuto a partorire questo nuovo spettacolo che ha un titolo un po' particolare, cioè Da grande voglio fare l'aggettivo, poi magari scoprirete perché. Però è davvero uno spettacolo in cui Andrea si mette in gioco davvero quasi senza pelle, con la sua biografia, la storia della sua famiglia, perché come sapete poi, certo, Andrea è figlio d'arte, ecco, insomma. Poi ancora si conferma l'aperitivo Le parole del teatro con Giulia Alonso e Oliviero Ponte di Pino della rivista Teatro. Anche l'anno scorso abbiamo avuto questi appuntamenti molto partecipati, anche questi, per raccontare quali sono le parole del teatro, insomma, quindi invitare il pubblico al solito a degli approfondimenti. Mm-hmm. them that's not shall lose. That's got his own. Child, Alex Goffer, lo volevo mettere come chiusura l'appuntamento con Nicola Bonazzi per questa conversazione di presentazione di stagione 2023-2024, ITC Teatro, Teatro dell'Argine. Perché a conclusione? Perché nell'ultima parte si darà appunto The Child e sarà una partenza con appuntamenti in stagione junior con i più giovani e i laboratori, e non solo, parleremo anche un po' di teatro insieme a Nicola, con cui è sempre più che piacevole scambiare due chiacchiere. Solo per appassionate e appassionati, ma veramente per avvicinarsi al teatro alzando subito un'asticella in maniera curiosa, importante, impegnata allo stesso tempo, per il pensiero di poter approcciarsi anche in maniera leggibile. Per cui direi che questi due aspetti, che il poter alzare l'asticella della curiosità e il portare al pubblico qualcosa di curiosamente leggibile, è un connubio che a ITC Teatro indubbiamente nell'eterogeneità del programma dà un valore più che aggiunto. Ma come vi dicevo, in questo nostro congedo con Nicola alcune idee sulle linee di teatro e in partenza un'attenzione a un pubblico giovane. Questo è un po' quello che accade. C'è naturalmente la stagione junior, la direttrice artistica della stagione è Vittoria De Carlo, quindi in questo caso mi arrogherei come dire il diritto di dire cose che non so, per cui non le dico, ma anche questa è una stagione seguitissima, la sala è piena di bambine e bambini, questo ci fa sempre piacere. Ma che altro dire? Possibilità teatro per quanto riguarda l'approccio del pubblico, abbonamenti e quant'altro. Allora, io dico sempre questa cosa, che l'approccio più diretto ed entusiasmante per seguire gli spettacoli è partecipare alle altre attività del Teatro dell'Argine, a partire dai laboratori. Poi naturalmente sul sito del teatro trovate tutte le indicazioni anche per l'acquisto dei biglietti, per i pacchetti di biglietti e così via. Ma io dico sempre che tutte le attività a latere della stagione, quindi quelle che vi ho raccontato in questa intervista, oppure le attività appunto di laboratorio, insomma, il nostro è un luogo molto partecipato anche per quello che riguarda le attività laboratoriali, sono il mezzo migliore per entrare in contatto non tanto e non solo con gli spettacoli dell'ITC Teatro, ma in generale con il teatro, perché il teatro non è solo quello che appunto si va a vedere, si tira su e giù la sala cinesca, diciamo, come se fosse un negozio, ma è una dimensione dell'essere che ci mette in comunicazione con le altre persone e in qualche modo ci fa anche stare bene, ci fa stare bene prima di tutto perché ci interroga su noi stessi, sul nostro tempo e anche su quello che siamo banalmente, la nostra quotidianità nello stare insieme agli altri. Dico questa cosa al di là appunto delle cose più concrete che, ripeto, magari trovate sul sito, ma perché mi piace dirla, perché appartiene al modo in cui il Teatro dell'Argine fa teatro da tanti anni, da quasi 30, ahimè, però speriamo di continuare. Suonano anche le campane. Suonano, così è una festa, esatto. Abbiamo avuto proprio è la solennità, esatto, siamo quindi, hai detto canonizzati. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buonissima stagione. Grazie, grazie a voi. Nicola. Grazie. Amici di Radio Città Fujiko, oltre che la compagnia Teatro dell'Argine, anche la Mediateca di San Lazzaro. A tale proposito, venerdì 22 settembre, oggi alle 19:30, presso la Mediateca di San Lazzaro, si terrà la presentazione al pubblico con aperitivo e buffet per la stagione teatrale. Una serata d'incontro aperta alla cittadinanza, rivolta a spettatori e spettatrici, allievi e allieve di tutte le età. L'ingresso è libero, quindi ricordo, alla Mediateca di San Lazzaro alle 19:30 la possibilità di incontrare ITC Teatro stagione 2023-2024 questa sera. E da oggi fino a sabato 7 ottobre 2023 la possibilità di acquistare i biglietti per la nuova stagione teatrale e prevede sconti, agevolazioni su biglietti e abbonamenti e un orario esteso di apertura della biglietteria. Quindi, insomma, se interessati, questo è il periodo giusto, fino al 7 ottobre, consigliatissimo. Va da sé che seguiremo la stagione di TC. Aggiungo lo spettacolo di Andrea Santonastaso, che magari mi auguro di trovare anche in diretta per il lavoro, in regia Nicola Bonazzi, protagonista Andrea Santonastaso, che già abbiamo conosciuto per altri spettacoli, uno dedicato molto bello, Mi chiamo Andrea e faccio fumetti, dedicato a Andrea Pazienza. Invece questa nuova produzione di Teatro dell'Argine, Andrea Santonastaso, Nicola Bonazzi, da grande voglio fare l'aggettivo. Colibrì, brano degli Incognito, vi ho detto brani Talking Loud e poi, insomma, come abbiamo aperto con Brian Powell, chiudiamo con Incognito. Ci accompagnerà la pubblicità, si rientra ed è o sorpresa o planata. Vediamo un po'. Intanto vi invito a restare all'ascolto dei 103.1 per una buona colazione. Breakfast Club.